Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla 208esima, pensate, trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, che è una trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 alle 21, appunto, poi subentriamo noi. E potete ascoltare la trasmissione attraverso o gli 87-900 MHz Radio Onda Rossa, oppure vi potete collegare sul nostro sito, che spero conosciate bene ormai, che è www.clrbp.it. Cliccate sulla radio, cliccate su in diretta e dovreste essere in collegamento con noi. Oggi in studio siamo come al solito Annalisa e Rosina. Però abbiamo due ospiti molto gradite. Presentiamo prima Caterina, che è di casa, ma naturalmente stasera abbiamo con noi Pina Nuzzo dell'UDI, l'Unione Nazionale Donne in Italia. E la cosa ci fa ovviamente moltissimo piacere. Ciao. Con Pina stasera parleremo della ormai famosissima iniziativa 50 e 50 ovunque si decide, che è appunto una campagna politica per la presentazione di una legge di iniziativa popolare per ottenere, diciamo così, la parità numerica di donne e uomini in politica e nelle istituzioni, quindi tutti quei luoghi dove appunto si decide, così come tra l'altro sarebbe previsto dall'articolo 51 della Costituzione. Bisognerà raccogliere almeno 50.000 firme entro il 30 novembre, correggimi se sbaglio. Esatto. Pina, perfetto. E a questo proposito, infatti, sono nati in tutta Italia più o meno spontaneamente dei centri di raccolta. Allora, Pina ci racconterà per bene quello che cosa significa la campagna, come è nata, insomma, ci racconterà esattamente tutto quello che può interessarci, tutto quello che potrà tornare utile, perché ricordiamoci tutte quante che è importantissimo firmare entro il 30 di novembre. Sì. Entro il 30 novembre. Quindi chi di voi non abbia firmato, ricordiamo, possono firmare donne e uomini. Possono, giusto? Firmare donne e uomini anche presso i municipi di Roma. Questo è utile dirlo, perché è un'informazione pratica che come dire, è immediatamente utile. Perfetto. A questo proposito vi ricordiamo ovviamente che sento un brutto rientro. Perfetto, non lo sento più. Vi ricordiamo che il prossimo 13 ottobre a Piazza Farnese si terrà la manifestazione appunto indetta dai centri di raccolta. E quindi chi non ha ancora firmato potrà firmare portandosi dietro un codazzo di donne, uomini, parenti e non, a Piazza Farnese dalle 14 alle 20, giusto? Esatto. E quindi a questo punto Annalisa mi guarda con uno sguardo un po' preoccupato. Sì, tutto di corsa, direi, di tutto di corsa. Un bel brano musicale. Questo abbiamo detto di che cosa parleremo stasera. Abbiamo adesso detto i numeri di telefono per chi vuole intervenire. Naturalmente no, quindi li puoi dire in questo momento. Sì, allora potete o telefonare qui direttamente in radio dalle 9 alle 10 allo 06 49 1750, oppure se siete un po' più timidi potete scrivere un SMS al nostro cellulare, che è il 338 41 46682. Se avete soprattutto domande sull'iniziativa, sulla campagna 50 e 50 o per Pina commentare quello risponderà. Che esatto, direttamente lei. A dopo allora. Spend am I to deny it? There's just no place like you. Roamed every road from downtown to home, and ways have parted. Where you are, where you are, is where the heart is. The heart is. Ed era un brano di Darien Brahms dal CD Green Valentine, che è stata qui a Roma 2 anni fa ormai. Allora, se qui, vogliamo cominciare subito con la notizia che penso che segni proprio la nascita, ci puoi raccontare come è nato tutto quanto? Sì, penso che posso fare riferimento a 2 fatti precisi. Uno è l'episodio che forse molti ricorderanno del 20 ottobre del 2005, quando in Parlamento si tentò un innalzamento minimo di quelle che noi conosciamo come le quote rosa, e in quell'occasione gli uomini di tutti i partiti, senza esclusione di alcuno, si ribellarono a questa possibilità. E lì non solo si ribellarono, ma ci fu anche un atteggiamento anche da caserma, si sarebbe detto, con tutto il rispetto per le caserme. Insomma, fu uno spettacolo veramente insopportabile. E lì ci siamo rese conto che il discorso delle quote era ormai una questione che andava conclusa. Perché le quote in tutti questi anni ci hanno messo nella condizione di dire: ma prima o poi questa cosa finirà, prima o poi verranno aumentate, prima o poi cambierà. In realtà abbiamo visto che c'è sempre stata una resistenza fortissima da parte degli uomini, e anche una difficoltà nelle donne, che in qualche modo le donne che erano lì, siccome erano in virtù dei rapporti con quegli uomini di potere, perché questo è, o di partito, in realtà non avevano nessuna intenzione di modificare una situazione ormai insopportabile, secondo noi. L'altro, cioè, tu stai, se ho capito sì, bene, dimmi. Stai dicendo che comunque le donne che avevano, anche coloro che avevano ipotizzato queste quote, erano soggette di ricatto, no? Certo. Perché comunque dovevano assoggettarsi alle direttive del partito che rappresentavano. O comunque stare dentro delle regole, esatto. Perché non essendo state scelte in una libera competizione in qualche modo, ecco, appunto. Ma sì, c'erano perché erano state votate, non voglio dire questo, però sempre con il sostegno, in appoggio, perché rappresentavano anche qualcos'altro. Tra l'altro, donne di valore, io questo, certo, non anche non stiamo mettendo in discussione. Il problema questo. Vero per noi donne era ed è di uscire da questa sorta di riserva, nel senso di stare dentro una riserva, dentro una dimensione di tutela, e dire: oggi noi vogliamo gareggiare alla pari, vogliamo anche assumerci delle responsabilità, però non vogliamo più stare dentro questa cappa soffocante che è quella della concessione, no? Sì, della concessione. Sì. Anche sai, questa storia della concessione è comunque una modalità che da anni, anche rispetto all'8 marzo, no? Molti mariti che dicono sì, va bene alla moglie, oggi è l'8 marzo, vai, e noi per tigna magari usciamo il 25 marzo, no? Cioè noi da tempo vogliamo uscire da questa concessione, questa gentile concessione, non è questo che vogliamo. Anche perché la questione delle quote, che pure è servita, voglio anche dirlo questo, è servita, però nello stesso tempo ha riprodotto questo discorso delle norme antidiscriminatorie, come se noi fossimo all'interno di una discriminazione di una parte. Noi siamo dappertutto, le donne sono ovunque, come appunto dice la nostra campagna 50 e 50, ovunque si decide, perché siamo ovunque, appunto. Anzi, nel nostro paese siamo più del 50%, quindi non si capisce per quale motivo noi dal 48 attendiamo l'attuazione dell'articolo 51 della nostra Costituzione. E devo anche dirvi che quando vado fuori a parlare ad iniziative, insomma mi è capitato ormai da quando la campagna è partita, e posso dire dalla raccolta delle firme è cominciata il 2 di giugno, prima di cominciare qualunque dibattito politico io mi domando, dico, ma è ridicolo che io debba andare a spiegare alla gente, a uomini e donne, perché le donne devono stare alla pari degli uomini. Cioè, immaginate voi un uomo che va e spiega perché deve stare alla pari delle donne. Cioè, e questa cosa di dover trovare delle parole per spiegare quello che a me sembrerebbe ovvio e anche mi domando, mentre mi faccio questa domanda, me ne faccio un'altra. Ma come abbiamo potuto sopportare per tanti anni che questa cosa si prendesse questa piega? Cioè, perché ci sono le risposte, perché ci sono ovviamente la politica delle donne ha riflettuto molto sul potere, se era giusto sporcarsi le mani oppure no, se era meglio stare dentro le istituzioni oppure no, voglio dire, ce li ricordiamo questi dibattiti. Ma sono anche dibattiti che oggi le ragazze, le donne giovani non capiscono, non fanno parte di un'altra storia. E vengo all'altro punto che per me è importante, da dove io forse proprio io personalmente sono partita. Perché in questi anni, in questi 5 anni in cui mi sono occupata della sede nazionale dell'UDI e anche del rapporto che ho avuto con le ragazze che venivano a consultare l'archivio centrale per le loro tesi, mi rendevo conto che c'era sempre una domanda forte di politica. Contrariamente a quanto sentivo dire in giro, che non avevano interesse, che non volevano. Anzi, quando si avvicinavano delle scadenze elettorali, mi dicevano, ma Berludi che cosa fa? Perché non facciamo un partito? Allora io capivo che era necessario che un'associazione come la mia desse una risposta sensata a questa domanda che poteva apparire molto emotiva, molto di viscere. Perché poi a volte le domande di viscere hanno veramente un senso. Dillo a noi che facciamo del desiderio la nostra bandiera, per cui stai sfondando una porta aperta. Sempre deluso. Non mettiamo i panni in mezzo, dai. No, ma io volevo fare un'altra considerazione rispetto a questa voglia di politica delle giovani. Secondo me c'è stata un'azione del sessismo che è stato sconvolgente, nel senso che molto spesso tutta questa sopraffazione ha portato le donne a neanche a rendersi conto di essere il soggetto vittima di questa sopraffazione. E quando poi chiaramente ci si rende conto, diventa quasi automatica la voglia di ripresa. Io penso anche che le giovani donne sono consapevoli di essere preparate, cioè a scuola sono più brave, sono più competenti, fanno una gran fatica, e nello stesso tempo sono anche donne che possono scegliere quando diventare madri, con il che è anche un problema, e questo riguarda tutte le donne, perché avere un corpo fertile comunque pone delle domande. o anche si chiede delle risposte, possiamo dire così, però il discorso vero è che queste donne sanno che possono andare avanti fino a un certo punto. Da un certo punto in poi a loro viene preclusa la possibilità di diciamola come va detta, di fare carriera, di decidere, di essere appunto nei luoghi dove si decide. Certo. E dove si decide, voglio aggiungere, ha sempre a che fare anche con il corpo delle donne. Sì, ma infatti noi avevamo fatto questa considerazione mentre stavamo parlando l'altro giorno, no? Che da sempre si cerca di operare un controllo sulle donne che passa attraverso la dimensione corporea, no? Il desiderio sessuale femminile è stato violentemente represso per secoli e ancora si cerca di fare tutto questo, basti pensare al rifiuto e alla negazione dell'autodeterminazione femminile, tanto per dirne una. Ed è per questo che a noi piace dire di essere in guerra, chiaramente virgolettata, perché noi siamo pacifiste fino allo strenuo, però siamo consapevoli che la guerra contro le donne è legata a doppio filo con il controllo sulla sua sfera affettiva e sessuale, quindi è importante. Non solo, ma c'è anche un'altra cosa, che noi siamo ripartite dall'articolo 51 della Costituzione, chiedendo appunto che venisse applicato, e abbiamo avviato quella che abbiamo chiamato una campagna 50 e 50 ovunque si decide. All'interno di questa campagna c'è la proposta di legge di iniziativa popolare che si chiama Norme di democrazia paritaria nelle assemblee elettive, che è una proposta di legge di 5 articoli. Il più significativo e il più importante è l'articolo 3, quello che dice che le liste dei partiti devono essere composti un uomo e una donna alternativamente. Che cosa vuol dire con questo? Che le donne non devono più essere messe tutte in fondo alla lista, e se la lista non è composta nel modo in cui dicevo prima, deve essere dichiarata irricevibile, cioè di fronte a una regola vera viene posta una sanzione vera, un vincolo. Perché è una regola quella che noi chiediamo, che incide non solo in senso pratico, ma incide anche sul simbolico, perché quello che noi chiediamo non è solo un discorso di rappresentanza politica, ma di modificare la rappresentazione della nostra società. Certo. La rappresentazione deve oggi contenere e dare, come dire, visibilità. Io devo vedere nel mio Parlamento, nel Parlamento del mio paese, un numero uguale di uomini e un numero di donne. Questo non vuol dire che noi siamo uguali. Assolutamente. Questo vuol solo dire che noi, proprio perché sappiamo di essere differenti, chiediamo che a questa differenza venga data una rappresentazione. Se invece sono gli uomini a parlare solo loro per gli uomini e per le donne non avranno mai la possibilità di misurarsi con questa rappresentazione. E voglio chiarire un passaggio. Noi non chiediamo la rappresentanza di genere, cioè noi non chiediamo che le donne rappresentino le donne, perché non è nella nostra Costituzione, perché ogni eletto rappresenta gli uomini e le donne. Qual è il problema della nostra democrazia? Che solo agli uomini viene consentito di rappresentare gli uomini e le donne. Pochissime donne possono agire una rappresentanza che riguarda appunto l'uno e l'altro sesso. È chiaro che ogni soggetto rappresenterà in modo diverso quel uomo e donna, perché avrà, come dire, si riferirà a un'esperienza che è completamente diversa. Ed è questa anche l'inedito con cui noi faremo i conti. Quindi, cambiando il punto di vista, cambieranno le strategie politiche nella sostanza. È vero che donne e uomini sono diversi, e questo ovviamente è una ricchezza aggiuntiva. È vero che le donne non rappresenteranno esclusivamente le donne, ma è anche vero che le rappresenteranno in qualche misura con... avranno, non dico un occhio di riguardo, ma avranno una... partiranno da un concetto diverso, cioè, perché comunque è vero che non avremo una rappresentanza di genere, che tra l'altro non è prevista dalla nostra Costituzione, ma è vero comunque che i nostri corpi sono veramente la nostra prima bandiera politica, cioè noi come donne agiamo appunto come donne, cioè, da donne, certo, agiamo da donne. Questo ovviamente non significa che gli uomini avranno il trattamento che ci è stato riservato per secoli. Oddio, forse per me un po' di vendetta non sarebbe neanche male. Esagerato. Vorrei ritornare su questo concetto, magari forse uno stacchetto musicale, mandiamo una canzone, altrimenti il ci concentriamo anche troppo. ci concentriamo troppo e cala l'attenzione. Okay. Quindi ci sentiamo una bella canzone che speriamo sia Lucinda Williams, mi sembra. Sì, Lucinda Williams. I can't feel my love anymore. I can't feel my love anymore. The mystery and the splendor don't thrill me like before. I can't feel my love anymore. I don't wanna talk to anyone. All the words that used to work have melted in the sun, and I don't want to talk to anyone. Faces look familiar, but they don't have names. Towns they used to live in have been rearranged. Everything has changed. Everything has changed. I can't find my joy anywhere. I can't find my joy anywhere. All the magic vanished into the misty air, and I can't find my joy anywhere. And now I don't know where my faith is gone. And now I don't know where my faith is gone. Wonder I had a sense of to the brightest star that shone. But now I don't know where my faith is gone. Faces look familiar, but they don't have names. Towns I used to live in have been rearranged. Everything has changed. Everything has changed. Abbiamo scoperto una Rosina molto dolce stasera. Che bel brano che hai portato. Un brano hai portato. Uno ne dovevi portare. Uno ne dovevi portare. Va bene, dai. Vabbè. Allora, siamo di nuovo in diretta. Vi ricordiamo che oggi ospite molto molto gradita è Pina Nuzzo, che ci sta parlando della campagna 50 e 50 e della prossima manifestazione a cui dovete accorrere numerose, e stasera ci tocca di pure numerosi, a Piazza Farnese, per raccogliere quante più firme possibile per far passare questa legge, no? Per proporre la legge. Il 13 ottobre, sì, 2007, alle 14 alle 20. E con noi c'è anche Caterina, che ci sta dando una grandissima mano a fare questa intervista. E niente, quindi continuiamo. Io volevo fare la domanda che poi ho fatto fuori onda, e il senso era questo, cioè il 50 e 50, questa campagna, e promuove appunto diciamo, sottopone all'attenzione il fatto che nelle liste ci deve stare un numero uguale di donne e di uomini, però questo non garantisce che vengano elette tante donne quanti uomini, e neanche garantisce il fatto che le donne magari un giorno possano superare il numero di uomini. Infatti questa è una cosa molto importante, perché la nostra proposta di legge si riferisce a come vengono costituite le liste. È chiaro che per Costituzione non si può, secondo la nostra Costituzione, non si può intervenire sul voto, no? Poi i cittadini decidono chi vorranno votare liberamente, uomini o donne. Per questo all'inizio dicevo la campagna inizia prima di questa proposta di legge di iniziativa popolare e non si concluderà certo con la presentazione delle firme, perché vorrà dire fare anche i conti con noi stesse se abbiamo voglia di stare in politica, cioè ci mettiamo in gioco per davvero. E del resto per noi dell'UDI ha voluto dire operare uno spostamento prima di tutto su noi stesse e su quello che pensavamo della politica, cioè appunto che le donne forse vogliono stare fuori, forse le donne non hanno voglia di misurarsi col potere, tutti questi forze le abbiamo dovuti mettere da parte, partire dal presupposto che le donne vogliono fare politica, dare fiducia alle donne comunque, perché quando noi siamo partite con la raccolta delle firme noi non sapevamo se ce l'avremmo fatta, perché comunque la forza dell'UDI non poteva permetterci di raccogliere 50.000 firme, e ne dobbiamo raccogliere molte di più per avere un reale peso politico. La cosa interessantissima, quella che veramente, devo dire la parola giusta, mi emoziona ogni giorno, è di vedere che questa fiducia, questo atto di fiducia politica è stato assolutamente ricambiato. Perché? Perché appena noi siamo partite con questa campagna, con questa raccolta di firme, non solo le donne ci telefonavano, ci chiedevano di firmare, ma chiedevano di costituirsi in centro di raccolta. Quindi noi abbiamo cominciato il 2 giugno, abbiamo lavorato tutta l'estate, stiamo continuando a lavorare, spedendo moltissimi moduli, avevamo cominciato stampandone 10.000, poi abbiamo detto no, e abbiamo fatto 3 ristampe e abbiamo dovuto ristampare le locandine, perché noi stesse non credevamo alla risposta che invece ci è venuta prima di tutto dalle donne. Questa è una cosa bellissima. In tutta Italia, vuole dire del sud, se no, anche no, sud, no, ci sono la risposta. Per esempio, la Sicilia, non solo noi avevamo un centro che era a Catania, è nata un UDI nuovo a Palermo che sta raccogliendo le firme, sono nate delle nuove UDI e il Consiglio Comunale di Gela ha fatto un atto formale di adesione. Quindi sono successe delle cose, per non parlare nel Salento, ma anche in Sardegna non avevamo nessun centro e adesso noi abbiamo 4 centri di raccolta. Questa cosa è bellissima perché abbiamo lavorato con una grande armonia, se posso usare questa parola. Quelle poche volte che ci siamo incontrate a Roma per prendere alcune decisioni, come quella appunto della manifestazione del 13 ottobre, non ha richiesto tra di noi quelle discussioni, ve le ricordate, di tremende, che insomma di cui molto noi bene sappiamo, perché io credo la campagna è partita con una chiarezza, che era chiarezza su 2 punti che ribadisco: l'autonomia, cioè questa campagna, questa raccolta di firme non fa da volano a niente, a nessuno, non appoggia questa o quella parte politica, non sta da una parte, non sta dall'altra, non partecipa alle primarie, non cambia, non ci interessa questo, perché questa è una questione che riguarda tutte le donne. Quindi aver mantenuto questa chiarezza fin dall'inizio, che ha anche molto a che fare col denaro, perché la campagna è autofinanziata. Ogni donna che si costituisce centro di raccolta e dopo paga i materiali che noi mandiamo, ovviamente, cioè vuol dire, stiamo parlando delle spese, però questo è un modo limpido e chiaro di dire alle donne: guardate che questa campagna è anche vostra. E la cosa, l'altra cosa straordinaria, poi mi fermate voi quando, perché io quando comincio a parlare mi appassiono sempre. La cosa interessante è che quando noi abbiamo cominciato a parlare di 50 e 50, era il periodo in cui pareva che le donne non potessero andare oltre il 20-30%. Appena questa proposta di legge ha cominciato ad trovare i suoi canali di comunicazione, che in gran parte è stato il passaparola e internet, anche i grandi partiti, anche l'opinione pubblica, cioè il linguaggio è cambiato, non ce lo riconoscono, e va bene. Però anche partiti che oggi si stanno rinnovando, che stanno cambiando, hanno dovuto dire 50 e 50. Questo vuol dire, allora, deve anche insegnare alle donne che sono nei partiti, che se ognuna di noi fa la sua parte e si crea una vera dialettica tra donne, loro fanno la loro parte e vedremo se riusciranno, io mi auguro che ci riescano, ma noi facciamo la nostra, perché a noi donne del movimento compete di alzare sempre il tiro, non di mediare, perché se noi mediamo, che le altre che stanno a fare. L'estate scorsa c'è stata una trasmissione televisiva al Buon Pastore, sì. Che, viva l'Italia, quella di Iacona, dice. Di Iacona, esatto, di Lo Iacona, Lo Iacona. E in cui si parlava di violenza alle donne, in cui si parlava di case per l'aiuto alle donne che subiscono violenza, donne maltrattate, e in cui è stata per la prima volta presentata in televisione la campagna 50 e 50. E era presente la Lidia, ministra Barbara Pollastrini, la quale ovviamente ha pensato bene immediatamente dopo l'intervento di Lidia Campagnano di dire sì sì, 50 e 50 è bellissimo, è meraviglioso, è fantastico, ma c'è anche una mia proposta di legge. È questo di solito l'atteggiamento che le donne delle istituzioni hanno avuto nei confronti della campagna 50 e 50, oppure c'è stata da parte di qualcuna una reazione, come dire, un'apertura, una possibilità di dialogo e non solo, anche ma di riconoscimento, di riconoscimento ma concreto, cioè dire delle donne delle istituzioni che hanno detto ok, 50 e 50 possiamo lavorare insieme, oppure è caduta così, come appunto tu hai detto en passant, gli è entrata nell'orecchio, però comunque non te la riconoscono, punto. Ci sono state donne delle istituzioni che hanno avuto... ci sono donne, a me è capitato per esempio, c'è stato un dibattito a Milano, Arianna Cenzi, che credo che sia si occupi di questi, adesso commissioni pari opportunità, qualcosa del genere, mi sfugge, della provincia di Milano, e ha fatto un intervento per me molto molto bello, perché lei ha detto all'inizio io ho pensato che voi non ce l'avreste fatta, ma mi sembrava utile questa legge, oggi invece penso non solo che è necessaria, ma è stata necessaria a noi per poter avviare un dibattito all'interno delle primarie che loro stanno facendo per il PD, e quindi mi ha dato il senso di come questa legge ha modificato un processo politico. Questo alcune donne lo fanno, anche qui a Roma nel dibattito l'altro pomeriggio nella biblioteca Rodari, una donna presente nel consiglio del municipio faceva un discorso analogo, però questi riconoscimenti o avvengono in privato o sono pochi, però va bene uguale. Il punto è che chi ha invece un ruolo istituzionale, che ha un impegno molto importante, in genere scivola su queste questioni. A me è capitato in un dibattito a un'iniziativa dell'ANCI dove la ministra ribadiva il discorso delle quote, poi di risentirla alla trasmissione di Iacona a dire che no è. Però so anche che c'è una proposta che lei fa del 40 e 60, cioè in qualche modo secondo me non c'è un discorso, però non è questo il problema, io credo che non è questo. Quello che io trovo importante è che se anche ci ignorano praticamente la grande stampa, a parte quei 40 secondi di Iacona, noi non abbiamo avuto niente dal servizio pubblico, da nessuna parte. Devo dire che devo pubblicamente ringraziare la rivista Confidenze per aver pubblicato questa settimana un'intervista bella, chiara, pulita, e nello stesso tempo dice la rivista che appoggia la campagna 50 e 50. Confidenze. Confidenze, cosa... il numero 40, che trovate ancora 40. In edicola, io sì. L'ho acquistato, tra l'altro c'è una magnifica foto di Pina, facciamo un po' di pubblicità anche per lei. Giuliana De Sienco. No, dentro Pina Nuzzo, non è quella sulla copertina Pina Nuzzo. No, che è anche bravissima Giuliana, devo dire che... Comunque, sì, devo dire che di la sì. Seguo anche in Caterina e le sue figlie. Anche tu? Sì, io sono una. Con calore e affetto, ieri sera non ha potuto seguire questa fiction, come si dice. Lei è bravissima. Dunque, questa cosa è molto significativa, questa cosa che tu dici. Hai fatto prima un accenno così passando al Partito Democratico. Vorrei far notare che il Partito Democratico deve ben guardare a questa proposta di legge, a questa iniziativa, perché nonostante sia molto democratico, così come si vocifera in giro, in realtà le donne sono state non proprio benissimo trattate, come ha anche denunciato pubblicamente Mercedes Bresso, la governatrice o governatura, non so bene qual è il termine, li trovo brutti tutti e due, della regione Piemonte, e la quale appunto pubblicamente ha affermato che non era possibile che all'interno della nuova assemblea, diciamo, nazionale ci fossero presenti soltanto, fossero presenti come diciamo dirigenti regionali soltanto 3 donne su 20, francamente è una situazione insostenibile. Se vogliamo parlare di numeri, ne abbiamo moltissimi, possiamo dire alcune. Facciamo un altro stacchetto musicale, perché mi bloccano, non vogliono dare i numeri, vogliono dare la musica. Benissimo. Sì. Vogliono dare le note. Mi pare che capiscono. Ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che avete la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info oppure www.clrbp.it. Potete anche mandarci una mail a contatti@clrbp.it o potete telefonare qui in radio allo 06 49 17 50 oppure mandarci un messaggino al nostro numero di cellulare, che rimarrà attivo fino alle ore 22, al 338 41 46 682. Ringraziamo Anna che ce ne ha mandato uno, ne aspettiamo qualcun altro, ma potete questa sera, visto che abbiamo ospite con noi Pina Nuzzo, anche fare delle telefonate e farci la domanda, che verrà data una risposta immediata. Sì, doveva dare i numeri, Rosina li dà spesso, però insomma io vorrei darli anche stasera, perché sono dei numeri molto significativi, a parte il fatto che dal 48 ad oggi abbiamo avuto soltanto due presidenti della Camera Donne. Vi ricordiamo? Degliotti e Irene Pivetti. Buonanima. La Pivetti è andata a finire ballando sotto le stelle. Che cos'è? È un talk show su Rai. Vabbè, allora era meglio, penso che... era meglio evitare la Pivetti. Okay. Allora, su 630 deputati, 527 sono uomini e 103 donne. Stiamo parlando ovviamente del Parlamento nazionale. Nella Camera Alta, quindi al Senato, su 333 componenti, 289 sono uomini, 44 donne. Questo nonostante le donne siano maggiormente longeve, quindi non è che dice non ci arriviamo, proprio abbiamo delle commissioni ci accoppano prima, anche questo purtroppo è un altro discorso. Nelle commissioni parlamentari 22 uomini e 3 donne. Su un totale di 25 ministri 19 uomini e 6 donne, di cui 5 senza portafoglio. Ciò significa che se hanno necessità di una spesa devono andare a bussare al portafoglio di qualcun altro, che solitamente appunto è un uomo. Su 59 sottosegretari 47 sono uomini e 12 sono donne. Se andiamo a guardare invece nelle responsabili delle segreterie particolari, su un totale di 85, 27 sono uomini e 58 sono donne. Improvvisamente, come si scende di livello, un pochino si alza la percentuale delle donne. Si allarga la piramide. Si allarga, esattamente. Nella classifica mondiale siamo al 63° posto, con il 17% di donne elette nelle assemblee appunto elettive, che è veramente una percentuale bulgara, ma non a nostro vantaggio. Tutto questo succede nonostante le donne in Italia si laureano per il 71% rispetto al 55% degli uomini con un voto superiore a 100. Il 23% sono dirigenti della pubblica amministrazione, nonostante più della metà delle donne della pubblica amministrazione, più della metà dei dipendenti della pubblica amministrazione sono donne. Nella scuola, che è un altro settore di cui bisognerebbe lungamente parlare, bene. 77 rettori sono uomini, 2 sono donne. Esatto. Nei principali enti di ricerca, non so, tipo il CNR, l'Enea, eccetera eccetera, non c'è nessuna donna che sia presidente, vicepresidente, direttrice amministrativa, eccetera eccetera. Finiamo qui di dare i numeri, perché altrimenti sarebbe davvero drammatica, quindi la situazione non è assolutamente rosea. Ecco a che cosa serve appunto una campagna come il 50-50. Esatto. Ma anche perché ti dà la possibilità della scelta, no? Prima Pina faceva riferimento ad un'operazione di modificazione culturale, perché poi questo significa, come diceva nella domanda Annalisa, non è detto che se io li metto nella lista poi vengono effettivamente eletti, però comunque si dà l'opportunità di vedere che c'è una possibilità di scelta, e questa è una modificazione culturale. Questo renderebbe il paese molto molto più civile di quanto effettivamente non sia. Pina, ci vuoi dire qualcosa nello specifico della manifestazione di sabato? Siamo qui anche per questo. Sì, esatto. Sì. Dunque, la manifestazione di sabato ha questo slogan che io voglio ripetere: io voglio esserci per decidere del futuro ovunque. Che mi pare semplice ma molto molto chiaro, perché quello ovunque per noi è fondamentale. I numeri che prima tu dicevi fanno riferimento esattamente a questo. Poi c'è e quindi noi saremo in piazza sabato 13 ottobre, e vi chiedo veramente di venire in tante, soprattutto in tante, perché questa è la cosa che ci interessa di più, perché è anche un momento in cui noi ci mostriamo tra di noi, intanto ci mostriamo a noi stesse. Questa è una manifestazione nel senso più stretto del termine, non è un evento come si ne costruiscono adesso, che poi viene qualcuno che presenta, che no, ci siamo noi, quindi la piazza è la nostra. E la manifestazione è stata convocata da tutti i centri di raccolta, che oggi sono più di 100. Quindi non è che ha la firma o la sigla dell'UDI o di questa o di quella pure associazione, che pure hanno aderito, abbiamo avuto appoggi importanti come Usciamo dal Silenzio, come lo SPCGL, le donne in quota, le donne di ABCD, della Bicocca di Milano, ci sono tante sigle, però oggi tutte noi ci riconosciamo dentro questa forma, centri di raccolta, e sul palco che noi avremo parleranno le donne che hanno raccolto le firme. perché io voglio che ci sia questa voce, cioè ognuna di noi dirà qual è stata la sua esperienza, perché in qualche modo io credo che il femminismo debba ritrovare un suo modo di mostrarsi e di rappresentarsi, di autorappresentarsi. Perché noi finora abbiamo avuto delle manifestazioni, o abbiamo cercato di fare delle manifestazioni. In realtà, uso una parola un po' antipatica, ma la uso che così ci capiamo subito, mimando il femminismo che c'è stato. Allora, quel femminismo là non c'è più, siamo noi che l'abbiamo fatto, siamo invecchiate. Le donne giovani che vogliono sentirsi ed essere femministe devono trovare un proprio modo, e un proprio modo non lo si trova dicendo genericamente io voglio essere questo. La campagna 50 e 50 è uno strumento reale di partecipazione alla politica non solo di questo paese, ma delle donne, perché non finisce oggi, non finirà il 30 di novembre, e permetterà alle donne di trovare delle espressioni. Faccio alcuni esempi così mi capite. In questi giorni abbiamo, non io perché con la mia voce sarebbe impossibile, ma insomma altre donne hanno inciso un inno, l'abbiamo chiamato così. 50 e 50, e tra l'altro se andate sul sito che è www.50e50.it potete scaricare un pezzettino. Cioè, voi dovete pensare che c'è stata una donna che l'ha scritto, ha trovato il modo di registrarlo, ha chiamato le altre donne a fare il coro, ci sono donne che hanno stampato magliette, che hanno stampato bandiere, cioè quando si arriva a produrre dei simboli in maniera così spontanea, vuol dire è quello che dà consistenza a quello che noi abbiamo conosciuto e chiamato femminismo, che oggi sarà diverso, però può esserci. È una possibilità che ci diamo. Questa è una cosa straordinaria, perché significa appunto che c'è stata una grossa risposta proprio dalle donne, certo, dal corpo vivo delle donne, da tante donne che insieme, certo, lavorano e producono per questa straordinaria campagna. Io so che noi raccoglieremo più di 100.000 firme. Ti sei già subito montata. So che raccoglieremo più di 100.000 firme. Che cosa succederà una volta che materialmente tutte queste simpatiche 100.000 firme saranno... Che significato ha? La manifestazione però, in cosa consiste? Ah sì, se ci... hai ragione. Dacci magari qualche notizia più dettagliata sullo svolgimento della serata. Lo svolgimento sarà questo che vi dicevo, e vi sembrerà una cosa, come dire, molto semplice, ma consiste esattamente in quello che dicevo prima, dare una rappresentazione a se stesse, chiamare delle donne che non si sono conosciute in questi mesi, cioè le une non sanno delle altre, e l'Udi, tra l'altro devo dire, le donne dell'Udi sono state estremamente generose in questa fase, perché in molte città coesistono centri di raccolta dell'Udi, ma in maniera tranquilla, serena, come forse io neanche immaginavo che potesse accadere, con varie realtà. Accadrà che ci vedremo, che saremo in piazza per dire siamo qua, e mi saremo anche visibili oltre, esatto, a vederci tra noi. Mi auguro di poter dire che abbiamo raccolto tante firme. Noi ne dobbiamo raccogliere 50.000 per legge, ma io voglio dirvi che 50.000 non bastano, perché 50.000 sono il minimo. Allora voi dovete pensare che c'è un Parlamento che è fatto di maschi, quelli che hanno finora legiferato. Noi non possiamo andare con 50.000 firme, noi dobbiamo andare almeno con il doppio, per poter intanto avere realmente 50.000 firme, ne dobbiamo avere 70.000, ma per avere un reale peso politico, per spostare, siccome noi non siamo dentro al Parlamento, dobbiamo essere da incentivo per le donne che sono in Parlamento, di sentire che hanno delle donne fuori e che noi diamo fiducia a loro, anche se forse loro non l'hanno data a noi finora, però come dire, siamo noi, e la cosa importante è che solo una forte opinione pubblica può spostare, e quindi è fondamentale che noi andiamo a 100.000 firme almeno. Per questo abbiamo voluto una manifestazione nel pieno della campagna, per dire alle altre siamo qui, e da sole ancora non bastiamo, dobbiamo essere di più, e quindi sperare. E quindi, anziché 100.000 saranno 200.000, purtroppo, ahi noi, il tempo è tiranno, sono 22 peccato. Meno 5 minuti primi. Va bene, però per chi è stata poco attenta, possiamo dire che la replica di questa trasmissione andrà martedì prossimo, per cui... Quindi sarà molto a ridosso della manifestazione. Un'altra domanda. No, perché l'importante è che se uno non può venire il 13 di ottobre... In piazza? Per la raccolta delle firme deve comunque rivolgersi al centro. Raccolta. Allora, se si sta a Roma si può prendere contatto direttamente anche con la sede nazionale, perché è ci dai qualche riferimento, dove potervi contattare? Intanto sul sito trovate tutto, però la sede nazionale dell'UDI, intanto potete scrivere una mail, questa è la cosa da segnarsi, che è 50 e 50 udinazionale@gmail.com. Questi indirizzi però li trovate sul sito, i numeri di telefono, ecco. Chi vuole firmare in tutti i municipi di Roma, ci sono i moduli per firmare, quindi basta presentarsi agli uffici URP e lì chiedere di all'URP, firmare. All'URP di ogni circoscrizione. Ogni circoscrizione c'ha il... prendere contatto con noi, siamo rintracciabilissime, quindi potete chiamarci, telefonarci, scriverci, che noi siamo a disposizione. Non serve portarsi la penna, lo diciamo perché magari uno non viene se non c'è la penna. Dice le cose che non leggo bene, non riesco a vedere. Chi vuole costituirsi in centro di raccolta nel suo quartiere, nella circoscrizione, nel posto di lavoro, questo lo può fare. Questo si può fare, basta semplicemente mettersi in contatto con noi. Benissimo. Allora, per tutte le informazioni, quindi ripetiamo il sito www.50e50.it. Perfetto, allora andate a navigare sul sito. Noi a questo punto ringraziamo Pina davvero per tutto il lavoro che ha fatto e per essere stata qui con noi questa sera, e le auguriamo che il lavoro vada avanti con l'aiuto di tutte quante, e per buon auspicio, siccome Annalisa dice sempre che io ho una musica orrenda. Sì che è vero. Dice che c'è una musica orrenda, per cui stasera vi lasciamo con Le Four Non Blondes, niente meno, e una canzone che si chiama What's Going On, che tutti conoscono. E ringraziamo moltissimo Caterina. Grazie. Io ringrazio voi e vi aspetto tutte in piazza. Certo, l'appuntamento è con la replica di questa trasmissione martedì prossimo, ma sicuramente il 13 in piazza. Il 13 a Piazza Farnese. Il CLR ci sarà sicuro. 14 alle 20, portatevi la penna. Grazie e ciao. Ciao. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out.